Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Una nuova puntata di Down on the Road sta per iniziare qui su Radio Libriamoci Web. Io sono Livia Napolitano, vi do il benvenuto. Dalla scorsa settimana vi stiamo facendo compagnia con i racconti di Marina Garaventa, che vi ricordo potete ascoltare ogni martedì, ogni giovedì e ogni sabato alle 10, alle 16 e alle 22, oppure in podcast sul sito www.nottetempoblog.wordpress.com o sul sito della radio. Mentre invece, per avere maggiori informazioni sui lavori di Marina Garaventa, la pubblicazione dei suoi libri e racconti, vi consiglio di visitare il suo blog personale principessasulpisello.com. Ed ora scopriamo insieme questo nuovo ed emozionante racconto di Marina Garaventa dal titolo La locomotiva. Buon ascolto. Attenzione, treno in transito a binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Il rumore sordo di una locomotiva rimbomba sotto la volta vitrea della galleria della stazione, mentre sopra, lontane nel cielo, corrono veloci le nuvole intarsiate di azzurro intenso. Un solo marciapiede, grande, immenso, percorre questa strana serra metallica per tutta la sua lunghezza, e due soli sono i binari che fuggono verso un infinito futuro. Poca gente attende in quest'ora imprecisata di un giorno che non so. Con certezza so che stringo forte la tua mano mentre procediamo piano sulle mattonelle rosse e gialle che ci conducono al nostro vagone. Tu mi guardi con amore e io sento in me presente e viva la felicità di questa partenza tanto desiderata. Io e te, da soli, partiamo per Parigi. Parigi, la città che non ho mai visitato, la città dei miracoli e dei musei più belli del mondo. Ma a me non importa quale sia la meta, so soltanto che sto partendo con te e questo mi basta. Appaga i miei occhi, le mie orecchie, la mia mente e il mio cuore. Tu mi sei vicino e piano piano, adeguandoti al mio passo lento, mi guidi verso il treno sorridendo dolcemente. Solo ora mi accorgo dei due treni che sostano su due unici binari e mi meraviglio nel guardarli. Mi attardo con gli occhi spalancati ad osservare la loro diversità. A destra brilla di acciaio e vetro un treno ultramoderno, un magico pendolino dalle linee scattanti e sinuose che porta il disegno aggressivo di una tigre sulla lucente locomotiva. Nulla nelle sue forme tradisce il meccanismo e la macchina. Tutto è magistralmente coperto e ovattato. Solo un sommesso ronzio viene dalle sue viscere che diffondono intorno la musica di un disco di Sting. A sinistra, invece, ammantato da una nebbia di fumo e ronzanti di sibili e stridori, troneggia pomposamente un vecchio Orient Express. Il treno dei film color verde con le lucenti maniglie d'ottone mostra a tronfio la sua ferraia, mentre dai finestrini pendono immacolate tendine di pizzo. Sorrido a questa vista inconsueta e penso ad un viaggio commemorativo. Poi pian piano rivolgo i passi al pendolino cromato. «No, questo è il treno, eccolo», mi dici con voce suadente, accompagnandomi verso la locomotiva. «Hai scelto un viaggio diverso dal solito», commento assaporando chissà quali meraviglie. Saliamo e ci assale l'odore delle carrozze troppo usate, anche se calpesto una moquette nuova e tocco metalli inossidati e freddi. «Questo è lo scompartimento, siediti». C'è anche una coperta che assomiglia stranamente a quel plaid di cashmere che mi fu regalato dai miei genitori quando avevo 10 anni. «Il primo pezzo del tuo corredo», aveva scherzato mio padre, ma io l'avevo preso sul serio e avevo conservato quel morbido pezzo di stoffa per usarlo solo dopo il matrimonio. «Strano ritrovarlo qui, o forse ci hai pensato tu? Mi volto ma non ti trovo, e poi improvvisamente ti vedo sul marciapiede. Hai cambiato vestito, non hai più la camicia e la giacca, ora indossi un paio di jeans, una camicia a quadri e le scarpe da tennis». Sono gli indumenti che porti quando sei nel tuo studio e io non capisco perché. Ti muovi rapido e quasi i miei occhi non riescono a seguirti. Sali sul pendolino, sparisci e ricompari attraverso la teoria dei finestrini, mentre dalla parte opposta un gruppo di ragazzi ti corre incontro. Sono loro. Una volta mi è capitato di riconoscere in mezzo ad una folla una persona della quale mi era stato descritto solo il carattere, ma che non avevo mai vista. Una corrente, come un contatto immediato e medianico inspiegabile, aveva formato un vortice nella mia mente e io l'avevo riconosciuta. Anche adesso è successo. Quelli sono i tuoi nuovi amici, gli scenografi, i pittori, i costumisti, i registi. Sono la tua nuova vita, quella che io non conosco, che non condivido più e non conoscerò. Sono quelli che possono, perché senza vincoli, decidere di sparire per giorni senza avvisare, cambiare letto ogni notte, non avere orari, non avere famiglia. Sono quelli, come dici ora, che possono spiccare il volo. Sono quelli con cui vuoi crescere ora. Ecco, ora ti abbracciano e tu sorridi. E insieme vi scambiate manate e pacche. Una ragazza ti mostra la cartina di Parigi e ti fa vedere qualcosa mentre tutti scoppiano a ridere. Poi improvvisamente le facce diventano serie e tutti si volgono verso di me, mi guardano e mi salutano. Mi ritraggo impaurita e mi trovo nel corridoio mentre sento il tonfo sordo delle porte dell'ultimo vagone che si chiudono. Devo scendere per raggiungerti anche se non so come farò e comincio a camminare nel corridoio stretto, ma uno sguardo allo scompartimento successivo mi raggela il sangue. Seduto nella poltrona vicino al finestrino c'è Gaetano, il bambino del Gaslini con le gambe matte. Allungo il passo, ma subito in quello seguente vedo Cosimo con la sua gobbetta e poi Saida con il piede inanimato, Assunta che non vuole fare la ginnastica, i Nanetti con gli apparecchi per l'allungamento degli arti e Isabella con la sua carrozzella. E poi ancora Gaetano, Isabella, Saida, Assuntina, Gaetano, Gaetano, Cosimo, Isabella, Isabella, Isabella, questo treno è pieno di loro. Questo treno si muove sotto i miei piedi e tu non ci sei. Arranco al primo finestrino e vedo che anche il pendolino sta partendo. Lentamente i due treni si muovono all'unisono e io posso vederti all'altro finestrino. Non odo la tua voce, ma è come se la sentissi. Non aver paura. Anche questo treno va a Parigi. Ci vedremo là quando arriverai. Sarò alla stazione. Non aver paura. Alla prossima fermata saliranno i tuoi genitori. Amore mio, non aver paura che io ci sarò sempre quando avrai bisogno di me. Non aver paura. Ma il pendolino è già sparito e mi rimane solo il ricordo della tua faccia sfrangiata dalla velocità. Non devo aver paura, ma quando questo treno arriverà a Parigi, tu avrai già visto tutto, saprai già tutto e l'attesa ti sembrerà interminabile. Al mio arrivo mi accoglierai festoso e mi racconterai tutte le cose fatte e viste. E per un po' io berrò questi fantasmi di storie come se le avessi vissute, nutrendomi delle tue sensazioni e dei tuoi palpiti. Ma presto vorrai partire ancora, com'è giusto che sia. E ancora saremo in una stazione come questa. Ancora ci saranno due treni. Ancora mi dirai di non aver paura. Ma la tua voce mi arriverà sempre più fioca, come quella di un astronauta perso nello spazio. Il pendolino correrà sempre di più, sarà sempre più moderno, mentre la vecchia locomotiva perderà colpi su colpi e alla fine sarà relegata su un binario morto. Allora io sarò troppo indietro e tu comincerai a sentire greve la distanza che ci divide. Troppa fatica ti costerà fermarti e parlare a chi ormai non fa più parte del tuo mondo. A quel punto non ci incontreremo più, perché la vita corre veloce e nessuno ha il diritto di fermarne il ritmo, neppure per amore.